Smart City, voci e luoghi dell'innovazione. Di Maurizio Melis. Buonasera, nella scorsa puntata con l'architetto Matteo Dondè abbiamo parlato di zone 30 e di shared space. L'idea è che riducendo i limiti di velocità sia possibile far convivere in modo più semplice i diversi tipi di mobilità nelle città, pedonale, ciclistica e automobilistica, fino ad arrivare, dove le circostanze lo consentono, all'eliminazione della suddivisione della strada in corsie per auto, piste ciclabili e marciapiedi e alla creazione di un unico spazio condiviso dove tutte le forme di mobilità convivono, appunto un cosiddetto shared space. È ampiamente dimostrato, d'altronde, che nei centri urbani la riduzione dei limiti di velocità non riduce la velocità media, che già oggi non arriva a 18 km orari nelle ore di punta, ma invece restituisce una mobilità più dolce che in pratica permette a più persone di scegliere in sicurezza un mezzo alternativo all'automobile. Ebbene, questa sera continuiamo a parlare di come favorire la mobilità dolce con Matteo Dondè, esperto di mobilità ciclistica e tra i pochi, come ricordavo anche ieri sera, ad aver progettato in Italia zone 30 e shared space. Buonasera Dondè, bentornato. Buonasera a tutti gli ascoltatori. Allora Dondè, shared space, misura non sempre diciamo praticabile, zone 30, piste ciclabili, manco a dirlo, è ovvio che aiutano. Cos'altro può aiutare lo sviluppo di una mobilità dolce? Sicuramente i tempi di percorrenza della bicicletta. Io, come racconto sempre, è l'unico mezzo che mi dà la certezza dei tempi di percorrenza per arrivare al lavoro. Non c'è nessun altro mezzo che mi consente di avere la certezza. E quindi lavorare sulla percezione dei tempi. Ad esempio, su Biciplan di Reggio Emilia ho utilizzato una segnaletica per le biciclette che indicava ad ogni incrocio, ad ogni importante intersezione, i tempi di percorrenza per raggiungere il prossimo obiettivo, quindi consentire di riconoscere bene la rete ciclabile dando un colore, un numero a ogni ciclovia, un po' come si fa con la metropolitana. Ecco, perché tra l'altro la percezione dei tempi di percorrenza di biciclette è totalmente distorta nell'opinione pubblica, possiamo dirlo? Esattamente, sì, tant'è che spesso quando incontro i cittadini mi dicono no, è impossibile che io ci impiega così poco, perché in auto ci impiego di più. Però invece è proprio così. Calcoliamo i tempi per cercare il parcheggio, i tempi per andare a prendere la macchina, mentre la bicicletta da sotto casa, sotto lavoro, i tempi sono assolutamente certi sempre, indipendentemente dal clima. Ecco, anche. Quindi far capire quali sono i tempi di percorrenza in bicicletta, che sono spesso sorprendentemente bassi rispetto a quelli automobilistici, anch'io che sono uno che usa la bicicletta ho constatato spesso questo fatto, aiuta a sceglierla. Che cos'altro? Uno dei problemi che hanno tutti quelli che usano la bici è che le fregano. Esattamente, il furto è uno dei maggiori disincentivi all'uso della bicicletta in ambito urbano. Per questo molte amministrazioni, soprattutto in Nord Europa, ma in realtà si sta iniziando anche in Italia, realizzano dei parcheggi custoditi per biciclette, dove io ho la certezza di parcheggiare e di ritrovarla quando ecco, ci sono delle soluzioni ormai automatizzate molto efficienti, no? Decisamente, purtroppo in Italia ancora si fa fatica, ma iniziano anche in Italia. Ci sono diversi esempi, cito quello spagnolo, hanno realizzato un parcheggio automatizzato che porta la bicicletta in automatico in un deposito sotterraneo, quindi occupa pochissimo spazio e viene restituita in 15 secondi con una tesserina. Uno arriva lì, striscia la tesserina e in 15 secondi gli spunta la bicicletta da sottoterra. Ecco, queste sono cose quindi che bisognerebbe senz'altro fare. Vogliamo dire invece un paio di cose assolutamente da non fare? Sicuramente un tema è l'assetto delle strade. Continuiamo a progettare le strade pensando unicamente all'automobile. E con qualche avanza facciamo il resto. Esattamente. Un esempio tipico è quello della svolta continua a destra delle automobili dove ho il semaforo. In quel caso il ciclista, se vuole proseguire dritto, si trova in forte conflittualità con questa svolta a destra. Un altro esempio sicuramente dell'assetto delle strade è realizzare le piste ciclabili sui marciapiedi quando non ho sufficiente spazio né per i pedoni né per i ciclisti, e così andiamo a creare un conflitto tra gli utenti deboli della strada. Forse il tema invece principale, come ci insegna l'Europa, è quella di lavorare seriamente e fortemente sulla sicurezza delle strade. Se rendiamo una strada sicura è sicura per tutti gli utenti della strada e non solo per una delle categorie. Sì, insomma, a volte si fanno anche le piste ciclabili, ma si fanno delle scelte tecniche proprio sbagliate, che dimostrano la mancanza di una cultura di quelle cose lì, anche nei progettisti. Esattamente, abbiamo ancora troppo in testa l'automobile, dobbiamo invece ragionare su una città delle persone. Va bene, grazie Matteo Dondè. Grazie a voi, buonasera a tutti e agli ascoltatori. Ci fermiamo qui, ci diamo appuntamento come sempre, a domani. Audi è innovazione. Scopri i suoi protagonisti su Audi Innovative Thinking.it.